Linee d'ombra di Matteo Caccia. Se hai il giusto stimolo, riesci a tirare fuori delle forze e fai delle cose che io ancora non mi capacito, come io sia riuscito a fare questo. Improvvisamente vedo un tizio al lato opposto della piscina a 100 metri da noi. In un attimo tira fuori una K-47 e ci spara una raffica addosso. Storie di un romano a Beirut e dell'emicrania del figlio di Saddam Hussein in una puntata che si intitola In situazioni d'emergenza. Causa numero 23. Tony Hanna contro Yasser Saleme. Lei è il querelante? Tony George Hanna, di nazionalità libanese, nato il 7 ottobre 1970? Sì. Residente a Fassua, Beirut? Sì. Entri l'imputato. Lei è Yasser Abdallah Saleme, nato il 16 giugno 1955 in Palestina? Sì. Che documento possiede? Il documento blu, il lascia passare. Lei dov'è residente? Nel campo Mare Lies. Non vuole avere un avvocato? No. Signor Tony, lei sostiene che il 2 luglio passato Yasser Saleme l'ha insultata e una settimana dopo, alle 8:30 del mattino, davanti alla sua officina, lui le ha rotto due costole? Sì. E chiede un risarcimento per i danni morali e fisici? Sì. E a quanto ammontano i danni morali? In che senso, scusi? La somma che chiede, a quanto ammonta? Preferisco che decida il tribunale. E inoltre chiede un'ammissione. Può chiarire? Lui deve ammettere il suo sbaglio. Lei deve costringerlo. È il tribunale che decide. Lei deve costringerlo a chiedere scusa. Voglio sentirlo dalla sua bocca. Questo pezzo magnifico che abbiamo appena sentito è tratto da un film altrettanto bello che si chiama L'Insulto. È un film libanese che qualche anno fa ha vinto anche il protagonista, ha vinto anche la Coppa Volpi a Venezia. La Coppa Volpi è il premio per il miglior attore protagonista di un film ed è stato anche candidato agli Oscar nel 2018 proprio per rappresentare il Libano tra i film stranieri. Ed è la storia privata di due persone che litigano tra di loro. Lui è un cristiano libanese e l'altro è un palestinese. È arabo, quindi è musulmano, e litigano per una stupidaggine in mezzo a una strada, e questa lite diventa qualcosa di molto più grosso, diventa una sorta di caso nazionale che marca, come spesso succede, la differenza tra i popoli, la differenza tra religioni e genera quei conflitti che sembrano non avere inizio e sicuramente non hanno fine tra persone, nazioni, religioni, che devastano in particolar modo il Medio Oriente. E parla molto di Medio Oriente tutta la puntata di oggi, perché le situazioni di emergenza che vi racconteremo riguardano una storia che forse quelli della mia generazione ricordano un pochettino, quando l'Italia si è trovata, o meglio dei militari italiani di leva tra l'altro, si sono trovati proprio in Medio Oriente, si sono trovati a Beirut a combattere perché c'era distanza a Beirut, c'erano dei battaglioni dell'esercito italiano. E poi invece raccontiamo un'altra storia che parla di emicrania, parla di un ipnotista che si trova a dover fare il suo lavoro con una persona illustre che inizialmente è sconosciuta e poi si scopre essere il figlio di Saddam Hussein. Questa appunto è una puntata che parla di situazioni d'emergenza. Fa strano un pochettino raccontare queste storie oggi che ci troviamo ancora, forse non più in piena emergenza, ma l'abbiamo vissuta per 2 mesi, e fa sempre strano come questa parola venga utilizzata anche a lungo termine, no? Cioè, di solito l'emergenza è tale perché dura poco, o perlomeno perché dopo un po' l'emergenza non è più un'emergenza, o la si risolve oppure diventa una situazione cronica, che è un po' quello che sta accadendo, diciamo, nel nostro paese, e molto probabilmente, diciamo, più in maniera più ristretta in Lombardia e in questa città, dove appunto l'emergenza sembra non volere passare. Ma questo è un altro paio di maniche, semplicemente per dire che il termine emergenza lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, chi più, chi molto più e chi molto meno. Ad esempio, chi è stato fortunato e non ha contratto il virus da un paio di mesi, insomma, dagli inizi di marzo più o meno ad oggi, che siamo ormai praticamente a giugno, e quindi ci siamo, insomma, siamo lì, sono 3 mesi. Ma noi raccontiamo storie in questo programma, solo storie, niente menate, storie che hanno a che fare con dei confini. Qui il confine è proprio quello, è il confine tra una situazione normale, una situazione in cui ti trovi a vivere la tua vita, poi succede qualcosa e in un attimo ti trovi di là, ti trovi a vivere una situazione che in qualche modo rappresenta un'emergenza. Partiamo, mettetevi comodi, cominciamo. Benvenuti a Linee d'Ombra. Sono un ragazzo del 1961, uno di quei giovani che nel 1983 si trovò per puro caso a svolgere il servizio militare a Beirut. Quei 4 mesi, come potete immaginare, mi hanno cambiato totalmente e nel profondo. Immaginate un ragazzo di 22 anni che vive a Roma, quartiere Prati, ha la moto, gli amici, la ragazza, insomma, uno dei tanti. Ingenuo, superficiale, un po' confuso, inconsapevole del mondo che c'è là fuori, che c'è fuori da Roma e fuori dall'Italia. Per una serie di motivi del tutto casuali, nel gennaio del 1983 parto per la leva. Arrivo in una caserma a Monza che, sempre per puro caso, in quel tempo era stata scelta per dare il cambio ai militari già impegnati in Libano. Sono finito a Beirut perché in quel periodo c'era questa missione internazionale di pace che era nata soprattutto per scortare i palestinesi fuori da Israele e dal campo profughi del Libano e portarli in Siria. L'Italia era stata inserita in questa missione internazionale insieme a America, Inghilterra e Francia. Per caso, perché non sono andato volontario. All'inizio le prime missioni erano tutti volontari. Le seconde missioni, perché sono state 2 missioni differenti, la seconda prendevano una caserma o una o più compagnie della stessa caserma con delle specializzazioni diverse, quindi c'erano i paracadutisti, c'erano gli assaltatori, c'erano gli artiglieri e tutto, e li addestravano appositamente per mandarli giù in Libano. A giugno 83 arriviamo a Beirut, alti e bassi, paura e divertimento. Qualche colpo di mortaio sull'accampamento, esplosioni del deposito munizioni, purtroppo un morto e qualche ferito, ma tutto sommato gestibile. Ad agosto dell'83, l'episodio che cambia per sempre il mio approccio alla vita. Io e un collega siamo nella nostra postazione, che è una semplice tettoia con dei sacchetti di sabbia intorno, posizionata sul tetto della piscina olimpionica, completamente distrutta dalla guerra civile del 75. È pomeriggio e fa un gran caldo. Sono seduto su una panchetta dietro i sacchetti di sabbia. Ho il busto appoggiato ad uno dei sostegni di legno della tettoia. Improvvisamente vedo un tizio al lato opposto della piscina, quindi a meno di 100 metri da noi. In un attimo tira fuori un fucile, una AK-47, e ci spara una raffica addosso. Il palo di legno a cui ero appoggiato viene colpito, sento il fischio del proiettile, mi metto al riparo, in attesa, con tutti i sensi amplificati, in una maniera che in futuro, solo una volta, mi è capitato di provare di nuovo. Yeah. mio collega cade nel panico più totale, comincia a strillare non voglio morire, non voglio morire, ma è totalmente incapace di qualsiasi reazione. Nel frattempo, il tizio che ci aveva sparato era già sparito. Decido di scendere dal tetto, ma il mio compagno è paralizzato, piange, è irrigidito, lo sguardo perso nel vuoto. Per arrivare nel blindato di supporto dobbiamo scendere 4 rampe di scale, poco stabili, superare un rotolo di filo spinato e devo portare con me il mio compagno e l'attrezzatura, che consiste in 2 fucili d'assalto, un fucile di precisione con visione notturno, 2 radio, 2 zaini. Il mio compagno, ovviamente. Circa 70 kg di attrezzatura più una persona rigida in preda ad un attacco di panico. Mi carico addosso tutta l'attrezzatura, mi trascino il compagno per il collo della mimetica, scendo le rampe, scavalco il rotolo di filo spinato, arrivo nel blindato, lancio dentro l'attrezzatura e il mio compagno, entro, chiudo gli occhi e rimango in una specie di trance per 5 minuti. Tutto questo non per fare la figura dell'eroe e nemmeno di Superman. Sono alto 1,76 m, all'epoca pesavo 74 kg, quindi un fisico magro, tutt'altro che robusto. Questo qui è uscito da dietro una colonna che stava a 80-100 metri di distanza da me, è uscito, ha sparato, è risparito di nuovo, insomma. Quindi quella è durata un secondo. Tutto il resto sarà durato 10-12 minuti, proprio il tempo fisico, ma un quarto d'ora al massimo. Tempo fisico di radunare tutto quello materiale che avevamo, cercare di stimolare un po' il mio amico che non si è stimolato molto, quindi incaricarselo e portarlo giù. Tutto questo per raccontarvi che sotto il giusto stimolo ognuno di noi può reagire con una lucidità, una forza, una decisione e una freddezza che normalmente non immaginiamo nemmeno di possedere. Inutile dire che vivere 4 mesi in una zona di guerra ti cambia per sempre la visione della vita. Io, ormai da 37 anni, ogni mattina che apro l'acqua calda, mi sorprendo del fatto che posso farlo, insieme alle altre 1000 cose considerate normali. Questa situazione che stiamo vivendo oggi forse farà capire anche a tutti noi che avere cibo, luce, acqua calda, scuola è una questione di fortuna. Siamo nati nella parte fortunata del mondo. Day one storm, and it was beautiful. Day one stone from the ground. Then the night she fell, and the air was beautiful. The night she fell all around. So look, see the days, endless colored ways. Go play the game that you learned from the morning. And now we rise, and we are everywhere. Look, see the sights, the endless summer nights. Go play the game that you like. La puntata di oggi si intitola In situazioni di emergenza e lo avete ben capito, immagino, dalla prima storia di oggi, dalla storia di Emilio, che cosa intendiamo per situazioni di emergenza. La sua storia è una storia che io ricordo a malapena, o meglio non la sua, ma la storia di persone che come lui, ragazzi che nella vita facevano tutt'altro, si sono trovati in Medio Oriente a combattere una guerra che forse non sapevano nemmeno di cosa si trattasse, da dove arrivasse. Erano ragazzi del mio paese o della mia zona, io avevo 7 anni e in paese giravo questa voce. Hai saputo del Claudio? È partito per Beirut, dove appunto Beirut sembrava l'inferno. Ed Emilio, in qualche modo, che fosse l'inferno oppure no, là c'è stato e ce l'ha raccontato. Pronto, ciao Emilio, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a te. Senti, che uomo sei diventato? Parto dal fondo. Che uomo sei diventato dopo quell'esperienza? O meglio, che ragazzo sei diventato? Come sei tornato dal Libano? Sono andato colpito perché ho visto la miseria, ho visto la paura. Oltre che la mia, la paura dei palestinesi. Noi eravamo la cintura di sicurezza al villaggio di Sabra Shatila dopo il massacro che c'era stato nell'82. Quindi diciamo, noi eravamo la sicurezza per loro. Quindi ho visto la paura appena c'era qualche cosa di strano, un bombardamento, un attacco, o strane voci che iniziavano a girare sulla nostra partenza. Ma soprattutto la cosa che mi ha colpito, che sembrava strano, nell'83, ma io ho trovato gente semi analfabeta che veniva dalla Puglia, dalla Sicilia, e poi era già pregiudicato, qualcuno c'era già figlia, pensando. Sì, sembra un'altra epoca proprio. Sembra un'altra epoca, e lo è probabilmente. Sì, probabilmente lo è. Senti, ma alla fine quel tizio che aveva sparato, chi era? Lì la situazione era complicata in quel periodo, perché c'era l'OLP di Arafat, che era un po' il gruppo certo. Moderato, diciamo così, politico, no? Anche se aveva il braccio armato. Poi c'era Al-Fatah, c'era Settembre Nero e poi c'erano i cani sciolti. Questo qua probabilmente era un cane sciolto, nel senso che uno che aveva detto, cioè, guarda, adesso metto paura al contingente italiano, è uscito da dietro la colonna, ha sparato 3 colpi ed è risparito. Quindi non era un attacco, una roba gratuita, quindi una roba non mirata, insomma. Sì, una spacconata, una buffonata, non so come definirla, no? Non era un attacco organizzato come c'era stato qualche mese prima quando morì il Marò Filippo Montesi. Certo. Peccato che se avesse, diciamo, 3 millimetri dopo avrebbe preso. Invece per fortuna non c'era una buona mira. Perché è passato proprio vicino, è passato vicino il proiettile. Considera che io ero appoggiato a un paletto di legno che era sorreggeva la tettoia della mia postazione, era appoggiato al paletto di legno e ha preso il paletto di legno. Ok. Chiarissimo. Quindi veramente qualche millimetro. Chiarissimo. Senti, ma invece penso il tuo compagno, quando si è ripreso, ha capito cosa è successo? Ti ha ringraziato per quello che hai fatto? No. Il mio compagno, quando sono riuscito a portarlo dentro al carro, era in uno stato totalmente alterato. Cioè, c'era paura. Certo. Perché paura era nel panico. E non so se lui si ricordi qualcosa, perché poi dopo non ne abbiamo più parlato. Cosa, quindi da lì addirittura sì, allora, lì succedeva, non è stato l'unico episodio questo, mm-hmm. Succedeva anche in altre postazioni e veniva vissuto, cioè, sempre che c'era 20 anni, quindi sai, oggi uno mi ha sparato, l'altro ho sparato pure io, finiva così, insomma, era quasi goliardica. E se non l'hai vissuto non lo puoi capire, perché sembra follia. Certo. Il rapporto con la morte, anche con la sparatoria, adesso la vedo come una follia, adesso che ho quasi 60 anni, l'ammazzo eravamo totalmente folli. Quando sei sul posto, la vedi anche in maniera goliardica, se vuoi. Ma senti, ma invece, Emilio, tu ti sei stupito di questa tua reazione? Cioè, quando ci hai ripensato, te lo saresti aspettato da te una reazione così fredda? No, assolutamente no. Io ancora adesso mi stupisco. Ho capito anche leggendo alcuni libri di episodi in altro contesto ma simile, che quando tu hai un giusto stimolo tu puoi fare qualsiasi cosa che da a freddo non riusciresti mai a fare. Mm-hmm. Ti dico, io all'epoca pesavo 72 kg, quindi non ero un palestrato né niente, mi sono collato almeno 40 kg di attrezzature, più il mio compagno che l'ho trascinato prendendolo per il bavero della medica, quindi uno sforzo fisico al di là delle mie portate fisiche, cioè io non c'avevo il fisico per fare cose del genere. Certo. E questa cosa poi, diciamo, per il resto della tua vita, tu oggi fai altro, fai l'agente immobiliare, giusto? Sì. Diceva Anita, diciamo, ti ha detto qualcosa di te questa tua reazione, che ti ha permesso poi di fare delle cose inaspettate nella vita? Cioè, hai capito che avevi delle risorse che non pensavi e le hai usate? Sì, però allora, ho capito che si possono fare tante cose. Il problema è che non lo puoi decidere, nel senso, devi avere lo stimolo. Okay. Se non c'è lo stimolo, tu, io per anni ho arrampicato, no? In montagna, nelle palestre. Allora dicevo, beh, adesso io questa qui in 6° grado l'affronto perché sono preparato. Però poi, siccome non avevo lo stimolo di arrivare alla competizione, non mi interessa, non mi è mai interessato. L'unica volta che, e quindi la facevo, ma magari non la facevo più in fondo, mi stancavo, mollavo così. L'unica volta, anche lì, lo stimolo forte, a una parete di 30 metri, a metà parete mi sono trovato in difficoltà perché ero stanco. E quindi non potevo scendere e faccio fatica a salire. Okay. Lo stimolo qual è stato? Che non avevo scelta, dovevo salire per forza. Okay. E sono salito. E quello è stato un grosso stimolo perché ho riprovato una paura simile, non proprio uguale a quella del Delta, ma la paura è simile di cascare di sotto, e da 15 metri già, insomma, è buona possibilità di farti male. Quindi lo stimolo è stato molto forte. Chiarissimo. Emilio, ti ringrazio molto davvero per la storia che ci hai mandato, per la chiacchiera e anche quello che ci hai raccontato all'interno di questa storia. Ti faccio in bocca al lupo per tutto e, insomma, se vuoi raccontarci un'altra storia siamo qua. Va bene, ti ringrazio e continuo a seguire il tuo programma che mi piace molto, mi fa pensare. Grazie molto Emilio. Quando l'ascolto. Grazie Matteo, buona giornata. Grazie. Ciao Emilio, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, a presto. Ciao. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional. Landscapes, they pass on me. The riddle gets solved and you push me up to this day. Inside of me, every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak, I feel. Grazie ad Emilio, grazie per averci raccontato come attraverso un episodio, no, si riesca a poter dire che effettivamente nelle situazioni difficili noi stessi abbiamo delle risorse che non conosciamo. E questo è il tipico esempio per cui invece che dirlo, invece che spiegarlo, racconti un episodio come questo ed è subito chiaro, il concetto è immediatamente chiaro. E grazie anche per averci ricordato un pezzo di un'epoca che non c'è più, perché appunto i militari di leva in Italia fortunatamente sono ben lontani dall'andare in missioni come queste. Io ricordo tra l'altro che all'epoca, quando ero un ragazzino, proprio per questo motivo, per la guerra civile che in Libano continuava a fare a pezzi parte delle città e di Beirut, mi ricordo che quando c'era un edificio mezzo diroccato o un quartiere di una città mezzo diroccata si diceva mamma mia sembra Beirut, e invece fortunatamente Beirut poi negli anni è cambiata, è diventato un luogo dove andare in vacanza, dove andare a visitare. Adesso in realtà credo che la situazione sia ancora un pochettino tesa purtroppo, ma pare essere una città bellissima, quindi speriamo di poterci andare quando tutto questo sarà finito, tutto in generale. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in situazioni di emergenza qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linea d'Ombra. La prossima storia è una storia che ha a che fare con l'ipnotismo, anzi con l'ipnosi, non so quale sia il termine esatto. Nella primavera del 2001, la National Guild of Hypnotists, un'organizzazione che ha sede nel New Hampshire, negli Stati Uniti, ricevette un'email da alcuni funzionari governativi in Iraq che stavano cercando qualcuno per curare un paziente senza nome a Baghdad. Si sapeva solo che un importante uomo d'affari era stato ferito in un incidente d'auto e che in seguito a quell'incidente gli era difficile camminare e aveva quindi pensato che l'ipnosi potesse essergli d'aiuto. Il presidente pensò immediatamente a un signore che si chiama Larry Garrett, un esperto ipnotista di Chicago. Era molto difficile trovare qualcuno interessato ad andare là, in Iraq, racconta, ma Larry era uno spirito avventuroso e infatti accettò. In una puntata che si intitola In situazioni d'emergenza, la seconda sera di oggi è quella di Larry Garrett e del suo paziente misterioso. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Sono una persona molto fiduciosa e ho anche immaginato che col mio lavoro avrei potuto migliorare le relazioni tra Stati Uniti e Iraq, racconta Larry Garrett. Ed è per questo che, nonostante la ex moglie, madre dei suoi figli e tutti i suoi amici insistessero perché lui non partisse, lui decise di andare. L'accordo prevedeva che tutte le sue spese sarebbero state coperte e che gli sarebbe stata pagata una parcella in contanti. Garrett ottenne l'autorizzazione dal governo degli Stati Uniti per viaggiare con un visto umanitario. Gli iracheni gli mandarono un biglietto aereo e l'8 di maggio volò ad Amman, in Giordania. Fu accolto da un autista su un SUV. È stato durante quel viaggio, in mezzo al deserto, nel cuore della notte, che apprese che l'uomo d'affari che avrebbe dovuto curare era Uday, il figlio primogenito di Saddam Hussein. «Ho sentito una scossa al cuore», racconta. «Sarebbe stato meglio fare un buon lavoro, oppure, forse, non sarei tornato a casa». Garrett aveva imparato le tecniche ipnotiche molti anni prima, nel 1968. All'epoca ero una persona piuttosto ansiosa, dice. Soffrivo di ulcere e mal di testa sanguinanti. Fumavo 2 pacchetti di sigarette al giorno, avevo un sacco di problemi. Lui era scettico sull'ipnosi, ma dopo 3 giorni di lezione si sentì molto più calmo, tanto che decise di approfondire gli studi e diventare lui stesso un ipnotista, aprendo il proprio ufficio negli anni 70. Negli anni ha trattato ogni patologia, dalle persone che vogliono smettere di mordersi le unghie, ai disturbi del sonno, all'ansia generale, ma la maggior parte dei suoi clienti va da lui perché vuole smettere di fumare. Ma questa sarebbe stata una sfida decisamente diversa. Una volta a Baghdad, Garrett incontrò i medici e il fisioterapista personale di Uday e controllò la sua cartella clinica. Un medico gli disse che nel 96 Uday era stato colpito durante un tentativo di omicidio e da allora camminava con un bastone. I medici però erano convinti che i suoi problemi fisici fossero aggravati dall'ansia e dallo stress mentale. E alla cura di ansia e stress avrebbe dovuto pensare lui. Il giorno dopo Garrett ricevette una chiamata nella stanza d'hotel. «Il paziente ti aspetta», gli dissero. Una limousine portò Garrett in un ospedale dove incontrò Uday per la prima volta. «Signor Larry», gli disse in un perfetto inglese, «sono onorato che lei sia venuto. La ringrazio molto». Poi si appollaiò sul bordo di un lettino e Garrett su uno sgabello. Alle loro spalle c'era uno stuolo di guardie del corpo. Dissi a Uday che l'ipnosi è un'esperienza molto intima, racconta, che non avevamo bisogno di un pubblico. Lui ha detto qualcosa in arabo e tutti, tranne 2 persone, se ne sono andati. Uday descrisse la sua difficoltà a camminare, poi Garrett ha proceduto a rilassare Uday finché non è entrato in trance. Con tono tenue e sommesso, disse a Uday che presto sarebbe stato meglio, che la sua gamba sinistra sarebbe stata più forte e che avrebbe abbandonato il bastone. Quando Uday aprì gli occhi, disse di sentirsi molto meglio, ma che la prossima volta avrebbe dovuto andare ancora più a fondo. La sera dopo, Garrett ipnotizzò di nuovo Uday. Quando ho finito, racconta, Uday ha aperto gli occhi e aveva un sorriso sul volto. Parlando con lo staff dell'hotel e con i commercianti locali, Garrett capì che il vero motivo per cui era stato chiamato era la successione al trono a Saddam. I problemi fisici avrebbero potuto penalizzare Uday a vantaggio del fratello minore. Garrett si convinse che in realtà a Uday non importava tanto essere ipnotizzato quanto essere incosciente. Per questo, nella terza seduta, lo spinse in un sonno profondissimo. Quando si risvegliò, Uday disse che aveva fatto un ottimo lavoro. I loro rapporti si intensificarono. Uday si mostrava curioso della vita di Larry e degli Stati Uniti, che aveva visitato in passato. Raccontò di essere un ingegnere e organizzò per Larry la visita ad alcune attrazioni locali. Visitarono una moschea sufi e le rovine di Babilonia, e dopo 10 sedute intensive, Larry diede a Udai dei nastri per l'autoipnosi come terapia e fece ritorno negli Stati Uniti. Look at Earth from outer space. Everyone must find a place. Give me time, give me space. Give me real, don't give me fake. Give me strength, reserve control. Give me heart. Give me soul, give me time, give us a kiss. Tell me your politics. Una volta tornato a Chicago, Larry fu preso d'assalto dagli agenti della CIA. Volevano sapere tutto, avere le foto. Si mostrarono entusiasti dei miei racconti. Ero stato su e giù per le strade di Baghdad e volevano che mostrassi dove si trovava la casa di Udai. Gli agenti mi spiegarono che aveva commesso molti crimini contro l'umanità. Pensavo che una volta usciti gli agenti da casa mia tutto sarebbe finito, ma non andò così. Nell'agosto del 2001 fui invitato a tornare a Baghdad. Ero eccitato all'idea di tornarci, avevo voglia, feci i documenti e il 9 di settembre del 2001 volai direttamente a Baghdad. Al loro primo incontro, il 10 settembre, Udai salutò Garrett calorosamente e gli disse che voleva essere ipnotizzato subito. Quella sera facemmo una grande seduta, racconta, rispondeva bene e poi passammo circa 2 ore a parlare del mondo e della vita. Il giorno dopo era l'11 settembre del 2001. Garrett era nella hall dell'hotel quando apprese che cosa stava accadendo a New York. La televisione mostrava scene che pensavo fossero di un film, dice. Fui condotto da Udai, che mi disse: «Signor Larry, ho un grande dispiacere per la tua famiglia e per il tuo popolo». Mi disse che potevo andarmene, ma tutti i voli erano stati cancellati, così mi offrì una radio a onde corte per poter ascoltare le notizie in inglese. Udai, nei giorni immediatamente successivi, prestò a Garrett un computer in modo che potesse inviare un'email alla sua famiglia e far sapere loro che stava bene. In quella situazione incredibile, Larry non trovò di meglio da fare che continuare con le sedute di ipnosi. Garrett racconta: «Apprezzavo la franchezza di Udai. Non mi ha mai parlato come il figlio di un tirano sanguinario. Eravamo solo 2 uomini lontani, seduti uno di fronte all'altro, di notte. Punto». Durante uno dei nostri incontri proposi a Udai di fare un video in cui avrebbe offerto agli americani le sue condoglianze. Purtroppo Udai rispose che gli sarebbe piaciuto farlo, ma che non era in grado di andare contro ai desideri di suo padre e quindi non se ne fece niente. Quanto a me, riuscii finalmente a tornare a casa il 19 di settembre. Udai mi accompagnò in aeroporto, ci salutammo affettuosamente e ci demmo un arrivederci, ma sapevamo entrambi che non sarebbe mai più accaduto. Come your masters of war. You that build the big guns. Hear that bell of death planes. Hear that bell all the bombs. Hear that hide behind walls. Hear that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain. Like I see through the water that runs down my drain. La storia che abbiamo letto, la storia incredibile dell'ipnotista del figlio di Saddam Hussein, l'abbiamo trovata sul Chicago Reader in un articolo che si chiamava Uday's Hypnotist, e cioè appunto l'ipnotista di Uday Hussein, in una puntata che si intitola Situazioni di emergenza. Ora ascoltiamo le strade in diretta e poi torniamo con i vostri diari della ripartenza e con la nostra storia seriale che continua. Linee d'ombra. Ormai lo sapete, da più o meno due settimane che stiamo raccontando dei nuovi diari, non più i diari della quarantena, ma i diari della ripartenza. Come sta ripartendo l'Italia più o meno lo sappiamo, abbiamo qualche dato, abbiamo dei servizi, abbiamo la radio che ne parla, abbiamo il web, abbiamo la TV che lo fa, no? Come ripartono gli esercizi commerciali, le aziende, eccetera eccetera, ma noi qui raccontiamo storie, quindi cerchiamo di fare una mappatura delle riaperture anche grazie alle vostre storie. Oggi abbiamo una storia di Teresa che è una storia che davvero è, da una parte è dolce perché parla di una ripartenza, ma dall'altra è molto amara perché parla di qualcosa che invece è terminato in maniera molto brusca. Teresa ce lo racconta con un tono pacato, nonostante si percepisca tutta la sua sofferenza, ve la raccontiamo perché anche questa a modo suo è una ripartenza, o forse è una partenza. Sono Teresa e dopo più di 3 mesi, ieri l'altro, sono rientrata nella mia casa, in campagna. L'emergenza virus mi ha sorpresa in provincia di Milano, dove mi ero recata nei primi mesi di febbraio per vivere una gioia, una grande gioia. Mia figlia aspettava un bimbo, un fiore che non è spuntato. Un angelo se l'è presa a più di 8 mesi. Ha preferito il cielo così. Sono seguiti i giorni di regole e di isolamento, di corpo che non è più corpo, ma contagio. La vita dentro casa ci ha visti insieme a cercare sguardi e parole e gesti per accudire. Ero dove volevo essere, con loro. Con una lotta che ancora vaga per le stanze, il tempo confuso, ognuno frammentato. Quando si rompe con le regole, io non mi precipito per ritornare a casa. Voglio essere certa che mia figlia, suo marito e il piccolo Filippo, 8 anni a luglio, disabile fisico e mentale, siano sulla strada giusta per ritornare alla vita. Non quella meccanica, priva di desideri ed esaltazioni, ma quella che sanno di vivere, di fantasia. Con la fase 2 iniziamo a vedere qualcuno nel prato sotto casa, più auto oltre il piccolo parco. Tutto sembra così pieno rispetto alla nostra prigione e mi dico che sì, posso andare. E ora sono qui, a casa mia, confinata in quarantena, ancora lontana da mio marito che, poverino, si è trasferito altrove per la notte. Di giorno invece vive al negozio, abbiamo un negozio e avevamo avviato a maggio scorso le procedure per chiudere l'attività, ma lì ha attrezzato una sorta di cucina dietro le quinte e io cerco di ripristinare casa, ho arredi e armadi invernali e polvere accumulata. Poi, come moltissimi italiani, mi dedicherò per cercare di collaborare a risolvere le urgenze di un lavoro già in crisi e lasciato a metà. Come avrete capito, vivo nel cuore di 2 drammi. Il dolore atroce di un'assenza e l'eco del virus che minaccia il mondo. E devo asciugare ancora lacrime nel buio senza la consolazione di un abbraccio. Temo che vivremo per molto tempo con la sensazione di qualcosa che ci vive intorno, che minaccia, che insidia, che non saremo più gli stessi. mi auguro riusciremo ad essere migliori, più rispettosi della terra che ci accoglie, più umani di umanità smarrita. Urge riparare un mondo in frantumi che continua a sbriciolare da molte angolazioni. Urge il coraggio di scelte insolite, urge avere grandi uomini al governo. È una serata ventosa, oggi, qui, nella mia città. Penso che domani dovrei ricominciare con meno lacrime, a prendere la vita tra le mani, a credere che presto tutto sarà un ricordo di una breve guerra. Noi ci sentiamo di fare davvero, anche se virtuale, però tutta la redazione, di fare un grandissimo abbraccio a Teresa e alla sua famiglia, ringraziarla per averci mandato questa pagina che sì, parla comunque di una ripartenza, anche se è terribile. La vita parte o riparte a prescindere da noi, e Teresa, nonostante appunto lo racconti, il doppio dramma che sta vivendo, quello personale legato alla figlia e quello invece più generale legato all'emergenza sanitaria che coinvolge tutto il paese e tutta l'umanità, sembra già avercela un pochettino nel finale della sua storia, anche con questo vento che spazza la sua città, un pochettino di desiderio di ripartire. Grazie davvero e in bocca al lupo. Noi continuiamo invece con la nostra storia seriale, perché vi stiamo raccontando la storia di una giornalista scientifica, si chiama Silvia Bencivelli, che dopo un articolo qualche anno fa, 7 anni fa per l'esattezza, in cui smonta una delle bufale che riguardano la nostra vita, cioè la bufala delle scie chimiche, si trova assediata da una serie di messaggi insultanti, molto molto violenti. Ci sta raccontando come è andata e soprattutto che cosa accade intorno a lei. Ho scritto un articolo divertente, per carità, un articolo carino su cui io avevo lavorato anche il giusto, era fatto bene, sono orgogliosa, insomma, ecco, era un bell'articolo. Però, ragazzi, stavamo parlando di una stupidaggine, capito? Cioè, in un mondo dove i giornalisti andrebbero veramente formati prima, poi incoraggiati a lavorare, poi pagati e poi difesi, no? C'ero io lì a parlare di scie chimiche, era quasi ridicolo. Ma questo lo dico adesso. La domanda che mi sono fatta da subito è stata: perché? Perché contro di me? E la risposta che mi sono data è stata che in genere queste cose si scatenano contro i deboli, contro gli indifesi. Io ero una giovane giornalista freelance, senza troppe tutele, femmina. Se non fossi stata femmina, non si sarebbero accaniti così su di me, perché è più difficile prendersela con un maschio. È una categoria meno interessante, ci sono meno cose da minacciare. E poi la femmina è più interessante da spaventare per un branco di lupi tutti maschi. Ti immagini che si spaventi anche di più, quindi è più divertente, è più indifesa. Poi è vero che generalmente ha meno potere. Se vuoi, su Google trovi la mia faccia e puoi mandarla in giro, fare dei fotomontaggi, cosa che infatti è stata fatta. E quindi, al di là del mio carattere, avevo tutte le caratteristiche del ruolo della vittima. Era abbastanza semplice prendermi di mira.